Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespero. Siamo pronti per il sound check di oggi, per la nostra prova del suono qui su Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo e buon pomeriggio a un venditore di stelle, un manager che ormai da più di 30 anni fa questo lavoro, gestendo l'attività e il talento di artisti più o meno importanti. E stiamo parlando di artisti italiani, soprattutto della sfera pop. Vado a introdurvi Monsieur Rolando D'Angeli. Buon pomeriggio, Rolando. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a te, Gigi. Rolando ha scritto un libro, Il venditore di stelle, pubblicato da pochissimo, che ha un sottotitolo Vita di un impresario fuori dal comune. E qui già la prima nota: una volta eravate definiti impresari, lavoravate per agenzie di spettacolo, oggi l'impresario si è trasformato in manager e gestisce un management per lo show business. Che cosa è successo? Qual è stata l'evoluzione? Da impresari siete diventati manager? Ma questo dipende un po' personalmente dall'individuo, da quello che fa questo mestiere, che è un mestiere speciale per gente speciale. Che cos'è? Io mi sono sempre definito un impresario di frontiera, ho sempre cercato di migliorare la condizione, di guardare dentro al mestiere, di cercare di proteggere e assecondare di più l'artista, perché l'artista è sicuramente un valore aggiunto per la cultura. Che cosa significa manager? Significa essere a disposizione 24 ore su 24 ore della musica, dell'artista in pratica. Devi essere il suo autista, il suo amico, il suo... tutto, devi essere tutto per lui. Praticamente quando tu ti accoppi con l'artista, devi condividere tutto ciò che l'artista ha in testa. Tu ti sei accoppiato con molti artisti e in occasioni diverse, girando il mondo e esportando anche il talento degli artisti italiani. Poi faremo anche dei nomi, perché ci sono poi riportati nel libro degli aneddoti molto divertenti che forse hanno anche messo in imbarazzo alcuni dei tuoi artisti, ma poi ce lo spiegherai. Dimmi una cosa, Rolando, da quanto tempo fai questo lavoro e che cosa è successo? Quanto è difficile oggi lavorare e vendere un artista? Ma innanzitutto bisogna amare questa professione, perché questa professione, se non hai una grande passione, non la puoi fare. Io praticamente vengo da Centocelle, Quarticciolo, dove mi sono dovuto inventare giorno per giorno la quotidianità. Mi sono sempre applicato, ho sempre cercato di migliorarmi, di guardare quelli che erano meglio di me, ma senza invidia, senza diciamo particolari invidie o particolari. Ho sempre cercato di andare incontro a quello che era il mistero, l'imponderabile. Lavorando molto, io ero un venditore di riso, ero un rappresentante di riso. Dal venditore di riso al venditore di stelle, un bel passo, eh? Ma stelle perché? Perché tutto sommato il mio mestiere è un sogno e sono riuscito a farlo, ho realizzato il mio sogno, quello di, non essendo un musicista, ho cercato di diventare il colonnello Parker come Elvis Presley. Infatti noi siamo nel tuo ufficio qui alla Music Show International e l'ufficio è tappezzato di fotografie e manifesti con Elvis Presley. Una delle cose più difficili per un manager e un management è gestire l'attività di un organico esteso, come per esempio l'orchestra, una grande orchestra. E allora approfitto per presentare una big band strepitosa in un momento importante per l'orchestra del batterista Buddy Rich, che qui presenta per la prima volta sul palco avanti a un pubblico sua figlia Katie di 12 anni e annuncia al pubblico: attenzione, perché a 12 anni mia figlia è già ubriaca. Buddy Rich in The Beat Goes On al soundcheck di Radio 24. La la big band del batterista Buddy Rich 1967 con la voce di sua figlia Katie, allora 12enne, in The Beat Goes On di Sonny Bono, a chiudere questa prima parte del soundcheck di Radio 24 con nostro ospite Rolando D'Angeli per parlare del venditore di stelle, ovvero un manager, vita di un impresario fuori dal comune, nuovissimo libro appena scritto. È il primo libro che scrivi? Sì, sì, è il primo libro. E forse l'ultimo dopo quello che hai detto degli artisti. Torniamo fra pochissimo. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Sound check. Il suono della musica. Anteprima esclusiva. È vero, questa è un'anteprima in esclusiva per il soundcheck di Radio 24, Black Radio 2, il capitolo numero 2 per il pianista Robert Glasper, che torna per la Blue Note, qui in compagnia di una star di prima grandezza del rap e dell'hip hop come Snoopy Dogg e il vocalist Lupe Fiasco. Robert Glasper, un'esclusiva del soundcheck di Radio 24, ascolteremo e stiamo già ascoltando da qualche giorno le tracce che compongono questa eccellente produzione. Snoopy Dogg, e ne parlo con Rolando D'Angeli che fa il manager, quando invia il rider dei suoi spettacoli, ovvero il management spiega agli organizzatori locali che cosa devono organizzare per produrre lo spettacolo di Snoopy Dogg, manda la piantina per la costruzione del suo camerino. Il camerino deve avere certi colori, ci deve essere il televisore a plasma, ci devono essere tappeti, cuscini, divani, frigorifero, quelle bevande, quelle noccioline, quella marca precisa, gli asciugamani devono essere di quel colore, e vuole la PlayStation ultimo modello, perché prima di salire sul palco a fare i suoi DJ set o i suoi rap deve anche distrarsi un attimo. Quanto è difficile e complicato gestire le manie, le fissazioni e le fisime degli artisti, Rolando? Ma è difficile, è molto difficile, perché ovviamente noi snaturiamo in quel momento l'artista, lo trasferiamo dal suo habitat normale dove riesce a comporre, a trovare se stesso, a trovare la musica giusta da proporre, lo snaturiamo, lo portiamo in tour, e allora in tour bisogna metterlo a proprio agio significa fargli trovare quelle condizioni ideali affinché lui si possa concentrare nel modo più giusto per esibirsi e per dare il massimo di sé. In 30 anni di carriera, qual è stato degli artisti con i quali hai avuto a che fare quello più complicato da gestire sotto questo punto di vista, richieste e via dicendo? Ma io non le chiamerei complicazioni, le chiamerei semplici richieste. Devi mettere a proprio agio l'artista. Tipo? Ecco, ad esempio, ho un artista che mi ha insegnato molto, ci tengo a sottolinearlo, Amedeo Minghi, perché Amedeo Minghi mi faceva le richieste più impensate, più... Dimmene una, dai. Una che voleva assolutamente nel camerino un tipo di poltrona particolare che dovevamo trasportare, voleva dei quadri particolari, voleva fiori freschi e soprattutto voleva tappeti persiani. I tappeti persiani, ovviamente. Quindi ha anticipato Amedeo Minghi tutte le richieste di Snoopy Dogg, di Madonna, Jennifer Lopez e via dicendo. Ma devo dire di sì, perché poi Amedeo Minghi, tra l'altro, è un grande artista che stimo molto, è anche un grande amico e un simpaticone, perché solo che gli artisti prima dello spettacolo si devono concentrare, sono molto tirati, e quello è il momento in cui il manager deve capire che deve lasciare tranquillo l'artista, deve capire di assecondarlo in ogni suo piccolo e grande desiderio. Anche da un punto di vista economico, la gestione oggi di uno spettacolo, di un concerto e di un artista è diventato complesso, no? Ci sono mille regole, bisogna fare le agibilità, tutto ruota intorno al denaro. Quanto sono attaccati gli artisti al denaro? E poi qui nel libro ci sono riportati molti aneddoti. Una volta si lavorava per i comuni dove c'era anche la parrocchia magari che partecipava al concerto, e si tornava a casa proprio con le buste di plastica piene di 1000 lire. Ma guardi, io vorrei un attimo soffermarmi su questo fatto dei comuni. Io non sono molto d'accordo che i comuni si arrogano il diritto di organizzare tutto, perché i comuni devono prima pensare alla sanità, ai trasporti, alla cultura scolastica e via di seguito. Questo qui lo devono lasciar fare, questo mestiere, a chi lo sa fare. Lo devono fare. Prima le Proloco organizzavano, si univano in associazioni ed era importante che sceglievano gli artisti che voleva la Proloco, di conseguenza che voleva il pubblico di quel posto. Oggi il comune vuole fare le programmazioni importanti, per farle importanti ci vogliono i soldi non ci sono, pertanto i comuni devono lasciar passare, devono assecondare le Proloco, assecondare i direttori artistici e gli organizzatori del posto, ma alimentare una voglia di fare che deve essere quella culturale musicale. Ho capito, Rolando, mi sa che ci sono dei comuni sparsi per il nostro paese che ti devono ancora qualcosa, mi sembra di capire questo. Uno degli artisti che amo e soprattutto un artista molto amato da un nostro carissimo amico che purtroppo non c'è più, un grande artista, formidabile compositore, e vi sto parlando di Francesco Puccioni, in arte Mike Francis, e vi racconteremo fra pochissimo anche l'esperienza che insieme a Rolando abbiamo fatto con Puccioni, con Francesco, perché all'inizio degli anni 90 Mike Francis era nei primi posti in classifica in quel delle Filippine. Pensate un po', i 5 dischi primi in classifica, dopo arrivava Michael Jackson. Uno degli artisti preferiti di Francesco era Bill Withers, che qui ascoltiamo in Use Me, e voglio dedicare Use Me a Mike Francis, un formidabile amico e mi manca tantissimo. Feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me all you want to do is use me. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con la prova del suono, il sound check di Radio 24. Oggi nostro ospite Rolando D'Angeli, il venditore di stelle, vita di un impresario fuori dal comune. Questo è il titolo del libro che ha scritto, raccontando le sue vicende da manager o impresario. E parlavamo di Mike Francis, un mio amico. Abbiamo vissuto insieme a Rolando un momento bellissimo, perché nei primi anni 90 Mike Francis era nei primi posti della classifica di vendite nelle Filippine, 5 brani primi in classifica. Dopo arrivavano Michael Jackson e tutti gli altri. E una delle cose del caro Francesco che ho sempre apprezzato è che, pur avendo avuto proposte importanti anche di trasferirsi in Inghilterra, negli Stati Uniti, poi è rimasto sempre legato al nostro paese. La cosa importante è non abbandonare l'Italia, siccome ultimamente sento spesso i giovani: ah, qui non si può più vivere, bisogna andare via. Non andate via, non lasciate l'Italia, non lasciate le vostre radici dove siete nati, perché il mondo non è meglio dell'Italia. L'Italia è un grande paese, dobbiamo essere fieri di essere nati in Italia, dobbiamo lavorare e far sì che usciamo da questa crisi uniti. L'Italia è piena di talenti, nella musica ce ne sono tanti, fra cantanti, vocalist, eccellenti musicisti di jazz e di musica classica, e tu sei stato uno dei primi a esportare il talento e gli artisti italiani all'estero. Ci sono degli aneddoti legati, per esempio, alle tournée internazionali di Pupo, piuttosto dei Camaleonti. Anzi, a proposito dei Camaleonti, a volte i manager e gli artisti, per andare in giro a fare i concerti, sono costretti a frequentare ambienti magari non tanto sicuri, e questo è successo con i Camaleonti. Siete stati a cena con chi e perché? Durante una tournée in America, ovviamente. Quanti anni fa? Ma parliamo di 33-34 anni fa. L'impresario americano mi commissionò questo gruppo, i Camaleonti, li avvicinai, facemmo questo tour andando in America, e per la prima volta ci portarono al Madison Square Garden, che per me l'avevo letto sui giornali, Elvis Presley e via di seguito, non mi pareva vero, se non che in prima fila invece c'era, quella sera c'era tutta gente, diciamo, c'erano italiani. Sì, erano quasi tutti italiani, ovviamente, ma c'erano gli italiani famosi in tutto il mondo. Perché? Italiani di peso, italiani di peso. E c'era la famosa, meglio definita, mafia, mafia americana, mafia italiana. Stavano lì in prima fila i vari Genovese, Gallo, Gambino, che aiutano praticamente, fanno in modo che le tournée non abbiano problemi, che si vada tranquillamente in giro. Infatti ci facevano visitare musei, ci facevano visitare, ci portavano a cena in posti particolari, ci facevano aprire ristoranti alle 2 di notte, perché era difficile. Sono stati molto vicini al tour, ma simpaticamente e molto amichevolmente. Quindi se oggi è complicato farsi pagare, anche per i concerti importanti, in quell'occasione sicuramente i soldi arrivarono, ma nel modo più assoluto, in una valigetta di metallo, ma nel modo più assoluto. Ci pagavano, non c'era nessun problema, si viaggiava sicuramente. Oggi questa sicurezza c'è molto meno qui in Italia. Allora passiamo alla musica. Ti voglio far ascoltare una voce bellissima e dovresti portarla in Italia. Questa signora si chiama Cassandra Wilson, è una star di prima grandezza del jazz internazionale, che qui interpreta un successo di Antonio Carlos Jobim. In origine il brano era Agua de Marzo, qui nella versione di Cassandra Wilson è Waters of March, al soundcheck di Radio 24. A hawk, a queen, the promise of spring, and the riverbank chalks are the waters of March, the end of all strain, the joy in your heart. So joy in your heart. Grazie a Rolando D'Angeli, nostro ospite, il nostro venditore di stelle, impresario, oggi manager. Grazie anche per avermi ospitato in questo bellissimo ufficio. Speriamo di tornare a fare spettacoli insieme. Ma lo spero vivamente. Nel frattempo ti ringrazio tantissimo e saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Vuoi lanciare un messaggio agli artisti presenti in questo libro? Che tanto per non ricevere querele per gli aneddoti che hai raccontato. Ma vorrei soltanto dire che ho fatto una foto del mio e del vostro passato. Ridiamoci sopra e divertiamoci, e soprattutto amiamo l'Italia e la musica. Grazie a Rolando D'Angeli. Arriva in chiusura Jeff Lorber Fusion con Fab Gear. A presto. Soundcheck. Il suono della musica.